Sei in diretta dal corteo? Allora, il corteo... Ci volevi far sentire qualche voce, mi sembra. Sì. Siamo... Intanto, vabbè, siamo praticamente... Abbiamo superato il tunnel di San Lorenzo. Invece sono con uno dei partecipanti alla rete di libertà di movimento, che si chiama Noyon. Adesso ve lo passerò, così mi piaceva insomma farvi raccontare un po' come si è creata questa rete e come mai per loro partecipano anche oggi. Pronto? Sì, ciao. Sono Noyon, sono un ragazzo bengalese, mi presento oggi in fronte della libertà del movimento, no? Sì. Che è nato un tempo fa, un tempo molto breve, per costruire un movimento che mette insieme italiani ed emigranti, come obiettamento al di là un'illogica di appartenenza alle pratiche concrete, no? Ecco perché abbiamo deciso di partire, che la stessa pratica delle politiche come sia obiettivo ultimo, come sia mille declinazioni che assumono nelle notte dei migranti e ogni giorno. Per questo motivo, no, abbiamo deciso di capire che fare un costruire un movimento e portare avanti dei nostri corsi, che come sappiamo bene che è un momento molto critico per gli migranti, che anche che una cosa che è un a proposito di la legge del pacchetto sicurezza, no? Come rispente clandestini immigrati, ma no, non è che sappiamo bene che clandestini immigrati che lavoriamo questa mese per costruire, per mettere un grande contributo per crescere l'economia di questo paese, però in realtà che questa sicurezza non è che per una cosa per gli immigrati a senso che è socialmente pericolo per questo paese, perché come siamo paura noi, come è cresciuto qualche cosa diverse parte, come è successo a Del Pineto, anche non è che per i migranti, anche come è successo per parte da italiani a Verona, a Napoli, tutte parti, perché come un momento non è che molto senso che non è che molto buono per noi, perché il pacchetto di sicurezza diventa un'insicurezza per tutti, perché sappiamo bene che una sicurezza deve essere una diritto garantito, una casa per tutti, una città più tranquilla, quella è sicurezza, insicurezza è quella che sfruttare in casa e di caso e a rispente, fronte, a espellere, carcere e tutti quanti. E ecco perché noi siamo in piazza per dare una risposta che lotta che insieme per gli italiani immigrati. E così lottiamo a vincere per aggiungere tutti quanti a dare una risposta, e così lo siamo fino alla fine, fino a quando a rivendicare i nostri diritti, e questa è la mia opinione adesso. Grazie. Ti ringraziamo a te per il contributo, grazie. Ciao. Ciao. E allora, non so, sappiamo se siamo per... Ciao Sara. Allora, abbiamo ascoltato con piacere questo contributo del compagno per la libertà di movimento. Tu avevi qualche altra cosa da raccontarci lì dalla piazza? No, per il momento qui devo dire che cresce moltissimo la partecipazione, questo sì. Però mi piaceva, magari vi richiamo fra un po', ci sentiamo fra un po', così magari posso cercare altri contributi, insomma, per il corteo. Perfetto, ti ringrazio. A dopo, ciao.